C'è un appuntamento a Roma la prossima settimana a Teatri di Vetro, ce ne parli un po'? Sì, siamo a Teatri di Vetro con un lavoro che è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, che è un affondo dentro l'opera di Elena Ferrante, L'amica geniale, in particolare il primo volume. L'episodio famoso per chi ha letto, per i molti che hanno letto quest'opera, delle due bambole, cioè le due bambine, le due amiche geniali, da bimbe, hanno queste due bambole a cui sono legatissime, che a un certo punto decidono di, per reciproco dispetto, gettare in uno scantinato buio. Vanno poi insieme a cercare di ritrovarle, ma le bambole sono misteriosamente sparite, e questo gesto fondativo in qualche modo sigilla la loro amicizia, ma è anche il simbolo di quello che è un attraversamento di una vita. Appunto, torniamo al discorso con i bambini, questo varco nella paura, insomma, siamo sempre in quei temi, attorno a quei temi, e a partire da questo episodio sviluppiamo questo lavoro che si chiama Da parte loro nessuna domanda imbarazzante, un verso rubato alla Gimbiorska, in cui la prima metà è proprio il testo della Ferrante che attraversa i corpi mio e di Fiorenza Menni, che è l'altra attrice in scena con me, e nel secondo tempo le due attrici diventano le due bambole che ci conducono in questo viaggio misterioso fino alla propria scomparsa, insomma. Quindi questo è più o meno, se devo dare per l'ampi un cenno a questo spettacolo, quello che lo spettatore vedrà. Bene, allora ci ricordi anche a questo punto la data e il luogo? Sì, siamo a Teatro Centrale Prenesse, dentro a Teatri di Vetro, il festival appunto che comincia a giorni, alle ore 21, l'11 di ottobre, quindi ormai tra pochissimi giorni. Allora Chiara, speriamo di ospitare presto altri vostri lavori, quindi speriamo, sì. Un abbraccio e alla Io prossima. Io vi ringrazio tanto intanto per questa trasmissione di questo radiodramma a cui siamo molto molto legati. Bene, bene. Allora a presto, un abbraccio. A presto, grazie, ciao. Ciao.